630 pasticcini di riso. Riso grammi 150, zucchero grammi 70, burro grammi 30, candito grammi 30, latte decili 38, uova numero 3, rum cucchiaiate numero 2, sale una presa. Cuocete moltissimo il riso, rimuovendolo spesso col mestolo perché non si attacchi. A 2/3 di cottura versate lo zucchero, il burro, il sale e il candito tagliato a pezzettini. Quando sarà cotto e ghiaccio, aggiungete il rum, i rossi d'uovo prima e le chiare montate dopo. Prendete gli stampini da brioche, ungeteli bene col burro, spolverizzateli di pan grattato, riempiteli e cuoceteli al forno da campagna. Sono migliori caldi che ghiacci. Con questa dose ne farete 12 o 14.